Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi puntata speciale per la nostra trasmissione che riunirà virtualmente ben tre under 40 di altissimo profilo, tutti appartenenti al network Aspen Junior Fellows, una rete di circa 80 giovani professionisti, molti dei quali emigrati all'estero. Restate con noi per un'altra delle nostre puntate da collezione. Prima di iniziare, uno spunto di riflessione che ci arriva direttamente dall'edizione 2013-2014 dell'osservatorio Istud. L'indagine ha messo a confronto le aspettative di oltre 3.000 giovani europei, americani e asiatici. Ancora una volta il paragone tra italiani e il resto del mondo ribadisce la voglia di fuga dalla penisola. Oltre 4 laureati su 10 preferirebbero trasferirsi oltre confine, più dell'80% reputa povere o addirittura poverissime le opportunità professionali offerte dalle imprese tricolori. E c'è di più, se in Germania o negli Stati Uniti le esperienze internazionali sono viste come opportunità di formazione, in Italia più del 20% degli under 30 identifica con la fuga l'unica e ribadisco unica chance di trovare lavoro. Solo il 3% dei laureati italiani considera molto buone le offerte di impiego nella penisola, contro il 26% dei grandi paesi occidentali e addirittura il 40% dei BRIC. Insomma, un under 30 qualificato di Pechino o Brasilia è 13 volte più ottimista sul proprio futuro rispetto a un coetaneo di Milano o Roma. A far la differenza nell'espatrio, infine, non è il dove ma il perché. Se i giovani mondiali partono inseguendo un futuro migliore, gli italiani si limitano alla fuga da un presente peggiore. Che contrasto quello che emerge plasticamente tra un sistema paese culturalmente arretrato e giovani di talento già proiettati nel futuro, spesso, troppo spesso, all'estero però. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a viaggiare tra Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti. Andiamo alla scoperta di una rete di talenti espatriati. Sono Rossella Nicolin, ho 34 anni e sono originaria del Veneziano. Sono partita dall'Italia nel 2005 per completare i miei studi in America a Boston e intraprendere una carriera di ingegnere strutturista prima a New York e poi a Londra. Sono Stefano Casettano, sono nato a Roma 35, quasi 36 anni fa e mi sono laureato in economia alla LUIS. Poi ho fatto un MBA alla Columbia University a New York e un dottorato in Germania in coaching internazionale. Adesso lavoro con l'università qui in Germania. Sono Marco Tantardino, 30 anni, sono cresciuto a Cremona e collaboro con NASA e Caltech negli Stati Uniti. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. L'indimenticabile Giorgio Gaber ci offre lo spunto per una domanda provocatoria con cui cominciare l'intervista. Ci si sente più italiani fuori dalla penisola, Rossella? Sicuramente sì. Per me parlare dell'Italia con gli stranieri è come provare in ogni momento l'orgoglio del portabandiera. Stefano? Chi emigra dall'Italia è in una situazione di confine tra l'essere meno italiano ed esserlo comunque e il non essere ancora parte del paese in cui si emigra. Marco? Penso di sì, ma è un discorso più generale, cioè la lontananza, uscire dalle abitudini sicuramente risveglia l'attenzione. Per esempio mi sono sentito più europeo quando ho visitato Russia e Cina. Cominciamo con una domanda generale su un tema che emerge in modo evidente dalle lettere che avete inviato a giovanitalenti@radio24.it. La valorizzazione dei talenti in Italia. Esiste secondo voi un ecosistema in grado di promuoverli nella penisola? Per me l'ecosistema esiste, ma non per promuoverli, per escludere i talenti, i quali delle volte purtroppo lasciano l'Italia per mancanza di opportunità. All'estero, adesso come adesso, si trovano più prospettive, sono più interessanti, sono meglio retribuite, ma che soprattutto stimolano la crescita e il contributo personale. Stefano, sei d'accordo con Rossella? Secondo me questa storia del promuovere i giovani in Italia non è la maniera giusta di affrontare il problema. In realtà il problema è generale, cioè bisogna affrontare i problemi del paese globalmente, i problemi economici generali, e risolvendo questo problema si potrà dare spazio ai giovani. Marco? Riguardo un ecosistema, probabilmente no, non c'è, ma le opportunità per venire valorizzati non mancano mai, quindi forse si può dire che in Italia queste opportunità non siano un sistema, ma ci sono, basta cercarle e insistere. Rossella, Manuela, partiamo con i tuoi studi, architettura all'Università di Venezia, il punto di svolta arriva con un master in ingegneria all'MIT di Boston. Quanto quell'esperienza ad altissimo livello è stata determinante nel proiettarti a livello internazionale? È stata indispensabile, e infatti l'MIT non è stata solo un'esperienza di studio, ma anche un'esperienza di vita. Sono riuscita a creare contatti professionali e personali, avere un supporto diretto e costante dall'università per inserimento nel mercato di lavoro, e soprattutto è stato un ambiente rigoroso, votato alla valorizzazione dei talenti. Stefano, per te laurea in economia e commercio alla LUIS, poi un MBA alla Columbia University e un PhD a Potsdam. Hai testato Italia, Stati Uniti ed Europa. Dove consiglieresti di andare a studiare a un giovane? Secondo me è importante fare gli studi, i primi studi universitari in Italia, proprio perché l'approccio che viene insegnato dalle università italiane, almeno all'inizio, è molto importante, cioè andare a fondo nei problemi, investigare e anche, diciamo, spaccarsi la testa per memorizzare diverse cose, e in seguito andare magari all'estero. Marco, hai cominciato con una laurea in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, che hai poi concluso all'Università Olandese di Delft. Delft mi ha cambiato la vita, ricordi, perché alla fine, spieghi, è tutta una questione di energia. Quale energia hai trovato in Olanda che in Italia si era persa? In Olanda, la TU Delft, ricordo proprio di aver ritrovato l'entusiasmo e la speranza, e soprattutto un ecosistema, per usare la parola di poco fa, che mi dava la possibilità di pensare in grande. E in Italia non mi veniva permesso di pensare in grande, quindi mi ricordo quando mi iscrissi all'università sognavo di raggiungere NASA, e Delft me l'ha permesso, mentre se avessi continuato con la specialistica in Italia avrei dovuto affrontare altri 2 anni di università ottocentesca con lezioni ex cattedra del professore onnisciente che troppo spesso pensa che la qualità del corso sia proporzionale al numero degli studenti che boccia. E allora chiedo a tutti un rapido giudizio sotto forma di voto alla qualità dell'istruzione in Italia. Rossella? Io darei un 9 in ambito teorico, un 5 in ambito applicativo finalizzato alla sfera professionale e 0 in selezione e promozione dei talenti e nonché supporto all'inserimento professionale. Stefano? Darei attualmente un 8 con outlook negativo. Marco? Mi trovo molto d'accordo con Rossella, però per sintetizzare con un numero 7,5. Rossella, in Italia per te solo 6 mesi come architetto in un piccolo studio di Mestre, poi assistente anche didattica in università con la possibilità di avere un dottorato, ma alla fine sei partita per gli Stati Uniti. Hai mai preso in seria considerazione l'opportunità di restare qui? Quando la lettera dell'MIT è arrivata con la missione, non ho pensato neanche per un momento di non partire. Anche se alla fine il mio periodo all'estero è stato definitivo, cosa di cui non ero sicura all'inizio, io penso che un periodo all'estero sia fondamentale per tutti. Stefano, tu tagli corto, nessun tentativo fatto per restare in Italia, ci scrivi, perché? La mia figura professionale si snoda tra l'accademia e i giornali, e poi scrivo anche per giornali italiani, quindi ho una presenza in Italia. In Germania anche scrivo, ho anche una collaborazione con la televisione e così via. Quindi è una figura che in Italia non viene compresa, perché non sono al 100% accademico, non sono al 100% giornalista, sono figure anglosassoni. Ci ho provato nel 2010, sono andato a parlare con il decano di una facoltà di economia che mi ha guardato, avevo 32 anni, e lui mi ha detto: cosa vuoi fare da grande? E io ho detto: arrivederci, e così è finita. Sono completamente d'accordo con te, complimenti e congratulazioni. Marco, per te il salto è stato dall'Olanda agli Stati Uniti, ma c'è un pezzo d'Italia nella tua internship californiana, prima la Planetary Society, poi la NASA, perché persino qui c'è chi sa segnalare i talenti senza raccomandarli, nel senso peggiore e molto italiano del termine. Ci spieghi com'è andata? Era il 2006 e stavo frequentando il mio primo anno di specialistica in Olanda, e l'anno successivo avrei dovuto affrontare uno stage. Così mi misi in testa che volevo assolutamente sfruttare questa occasione per raggiungere gli Stati Uniti e possibilmente NASA. Tuttavia non avevo un curriculum particolare in quanto ero solo uno studente. E 2 italiani incontrati quell'anno infatti mi hanno cambiato la vita. Antonio Carosi, che è un consulente internazionale che vive ormai da anni a New York, e Silvano Casini, che fu amministratore straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana nel 1995. Siccome Carosi aveva un cliente a Cremona, provai a raggiungerlo e gli chiesi se gli andava di darmi una possibilità, e accettò sfidandomi. Mi disse che conosceva un certo Silvano Casini e mi avrebbe presentato. Ma da lì poi si è dipanata la carriera, molto americana possiamo dire come chance. Torniamo a Rossella. Dopo l'MIT, la tua formazione perfettamente a cavallo tra architettura e ingegneria ti porta alla sede newyorkese di Bureau Apple, da dove resti 3 anni prima di spostarti a Londra, dove arrivi sino al grado di senior engineer. In tutte le mie esperienze lavorative, riassumi, la meritocrazia è sempre stata la base di ogni assunzione o valutazione di rendimento. tu hai vissuto nel cuore della cultura anglosassone. Come si vive quotidianamente la meritocrazia? Beh, la meritocrazia, da come l'ho vissuta io, è un sistema che incoraggia a prendersi le proprie responsabilità, che insegna a riconoscere i propri errori e quelli degli altri, ma soprattutto un sistema che premia i risultati positivi e offre lo spunto per il traguardo successivo. Stefano, per te una carriera che si snoda tra una consulenza per Booz Allen Hamilton, un paio d'anni in una grande multinazionale italiana, poi l'Università di Potsdam. Sei molto drastico nella comparazione di opportunità professionali tra Italia ed estero. Nella penisola non esiste più una grande industria in grado di fare da ascensore sociale per i giovani bravi. Quanto l'hai sperimentato sulla tua pelle? Io non credo nella meritocrazia come concetto astratto da introdurre in un sistema e poi tutto migliora. La meritocrazia è una conseguenza di altre azioni. In particolare, se si crea competizione nel sistema economico e quindi si crea una possibilità di crescere, si crea la meritocrazia. Questo però può avvenire in due modi: o con grandi aziende in cui si può crescere facendo carriera interna, o con le start-up. In entrambi i casi è necessario abbassare le tasse per ravvivare la situazione economica e consentire la crescita di nuove professionalità. Marco, la tua è una carriera molto particolare che, dopo una tesi alla Università Politecnica da Catalunya, ti riporta negli Stati Uniti con il progetto KISS, che da Pasadena ti porta al grande salto verso la NASA. Alla base della tua storia la volontà di lavorare come indipendente, una doppia vita da scienziato imprenditore abbastanza unica. In questo, quale fertile terreno hai trovato negli Stati Uniti? Gli Stati Uniti rimangono ancora una grande terra dell'opportunità. Se hai un'idea, per pazza che sia, troverai sempre qualcuno che ti ascolta seriamente. Poi se hai potenziale, l'idea andrà per la sua strada. Negli Stati Uniti ogni volta che scrivo una mail ricevo una risposta anche in tempo reale, e anche se la persona magari copre una posizione di altissimo livello. In Europa, specialmente in Italia, purtroppo situazioni come queste sono invece un'eccezione. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Rossella Nicolin, 34enne ingegnere in Gran Bretagna, Stefano Casertano, 35enne professore universitario in Germania, e Marco Tantardini, 30 anni, scienziato imprenditore basato in Italia ma al lavoro nel mondo. Tutti appartengono alla rete Aspen Junior Fellows. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Rossella, nel 2012 lasci il bureau Apple e approdi prima ad Atkins, infine ad Acom, sempre a Londra. Di cosa ti occupi ora esattamente? Sono principal engineer nello sports team di Acom. Ho un ruolo sia tecnico che manageriale dentro un gruppo di architetti e ingegneri specializzati in stadi e strutture speciali. Stefano, quanto è facile farsi strada a livello accademico in Germania a differenza dell'Italia? Di cosa ti occupi adesso? È altrettanto difficile quanto in Italia. In realtà non bisogna pensare che sia più facile, soprattutto per chi si occupa di scienze sociali. Io personalmente adesso sto seguendo un progetto in collaborazione con l'Università di Gerusalemme e un istituto di ricerca palestinese sull'effetto delle relazioni energetiche sul processo di pace. Marco, con te vorrei soffermarmi sul progetto Asteroid Redirect Mission, che tra le altre cose ti ha portato a lavorare come consulente con l'ESA europea. In breve, qual è lo scopo del progetto e come sei riuscito a farlo divenire un programma della NASA? Al momento l'esplorazione spaziale, come sappiamo, finisce a 400 km sopra le nostre teste, alla Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia nel 2010 il Presidente Obama annunciò che entro il 2025 NASA avrebbe mandato l'uomo nello spazio più profondo, verso Marte, ma come primo obiettivo il 2025 verso un asteroide. Si è visto poi che comunque, visto l'attuale budget e la difficoltà tecnica, anche questo obiettivo era troppo ambizioso. Così nel 2010 misi insieme un team di ingegneri e scienziati americani, NASA, specialmente nella JPL, e studiamo la fattibilità di catturare roboticamente un asteroide e avvicinarlo piazzandolo attorno alla Luna. Nell'aprile del 2013 Casabianca e NASA hanno annunciato proprio l'Asteroid Redirect Mission come la nuova strategia americana per l'esplorazione. Complimenti, complimenti davvero. Rossella e Stefano, entrambi siete molto scettici su un possibile ritorno in Italia. Vi chiedo perché, in una battuta, perché questo no, Rossella? Non riuscirei a trovare le stesse possibilità. Stefano? Non so cosa fare in Italia. Marco, il tuo è un profilo diverso e apre una visuale interessante in proiezione futura, perché tu al momento lavori di fatto con l'estero, ma vivi in Lombardia. In un mondo globale connesso come il nostro, può essere questa una terza via per menti intraprendenti, ma quanto soprattutto è fattibile? Ma credo sia fattibile ed è una novità del nostro tempo. Sicuramente non sarebbe stato possibile 10 anni fa, prima di Skype, YouTube, internet veloce, ma per esempio ho inventato l'Astro Redirect Mission stando a Cremona nel 2010, grazie a internet ho studiato, ho costruito il team semplicemente telefonando a 0.01 centesimi al minuto con Google Voice e tenendo aggiornato il team via mail. Tuttavia questo funziona per seminare, poi ovviamente per raccogliere c'è bisogno della presenza fisica. che allora mi rimetto in viaggio. Chiedo a tutti e tre, rapidissimamente, quanto una riconnessione tra giovani professionisti italiani ora all'estero e il sistema Italia può potenzialmente innovare e modernizzare il paese, se non addirittura rivoluzionario. Rossella, in una battuta. Non deve esserci la dialettica, non esistono italiani all'estero e italiani in Italia. C'è una realtà italiana a cui tutti devono contribuire. Stefano. Non sono gli italiani all'estero che devono tornare in Italia, ma è l'Italia che deve andare all'estero. Marco. Ma io posso fare un esempio concreto con degli amici. Un paio di anni fa gli hanno fondato una società italiana e anche metà est che si chiama iStarter, che è un incubatore e acceleratore di impresa con sede a Torino e Londra, e crediamo nel talento italiano e speriamo che questa iniziativa riesca a fare la differenza. Rossella, a nome di tutti, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Per me l'Italia adesso è come un eterno brutto anatroccolo che impedisce a se stesso di evolversi, questo è come la vedo, però la possibilità di crescita c'è un labirinto burocratico, ci sono i mediocri che vogliono conservare i propri privilegi, ma c'è possibilità. E a livello di proposta mi limito a una considerazione: per me è indispensabile abolire il valore legale del titolo di studio, della laurea. E ci raggiunge ora in linea Lucio Stanca, presidente del network Aspen Junior Fellows. Buon pomeriggio. Buongiorno a lei. Lucio Stanca, abbiamo appena ascoltato storie che sono nel loro piccolo lo specchio di una parte di paese che ha scelto di andarsene, un fenomeno che, dati alla mano, è in costante ascesa. È, per dirla con Mario Monicelli, la certificazione del fallimento di due generazioni di classe dirigente italiana? Beh, io direi innanzitutto che oggi, per un giovane che vuole prepararsi, sia competitivo in un'economia globale, andare all'estero non è più un optional, ma è un momento fondamentale di formazione e sviluppo. Il problema è che poi molti giovani non hanno la possibilità di rientrare, e per due motivi semplici, fondamentali. Uno, perché mancano le opportunità. L'Italia è sprofondata in un immobilismo ormai da 20-25 anni e non crea crescita e non crea opportunità, soprattutto dei nuovi campi che attirano i giovani. E secondo, e non trovano in Italia quello che hanno trovato all'estero. C'è un sistema basato sul merito. Noi siamo legati ancora a un concetto del passato irrazionale, dell'egalitarismo, e pensiamo che il merito possa minacciare la solidarietà sociale e creare ingiustizie perché si dà di più a chi è più bravo. Questa assenza è un fallimento di questa classe dirigente. Ma certo. Assolutamente, non abbiamo costruito un'Italia moderna capace di avere un'economia moderna come quella che abbiamo intorno a noi. Veniamo all'Aspen Junior Fellows, ci spiega in breve cos'è questo network e quali obiettivi si prefigge. È ormai da 15 anni che abbiamo dato la nostra attenzione nell'ambito dell'Aspen ai giovani, abbiamo creato un gruppo di 80-90 giovani che a 35 anni poi lasciano, ed è un momento di formazione, di sviluppo della loro personalità, della loro conoscenza, quindi attraverso un confronto interdisciplinare. Nel nostro gruppo ci sono da manager a scienziati, a giornalisti, a chi opera nel non profit. Abbiamo 40% di donne, 35% di giovani che lavorano all'estero. Insomma, parliamo di problemi fondamentali per sviluppare loro dei valori e una conoscenza dei problemi di fondo dell'umanità, dell'economia e della società del XXI secolo, per essere pronti a diventare i leader del futuro. Lei recentemente ha pubblicato il libro L'Italia vista da fuori e da dentro, nel quale dipinge un paese che non ha capito molto in realtà dei cambiamenti in atto nel mondo e propone una nuova leadership. Pensa che possa arrivare questa leadership dall'estero, da quell'Italia migliore che ha varcato i confini del paese, oppure sono soggetti un po' troppo pericolosi per l'immobilismo italiano? Viva la pericolosità di questi giovani che hanno conosciuto un mondo diverso, che hanno conosciuto delle culture diverse, che possono portare quindi un contributo migliore alla risoluzione dei problemi italiani. Io spero che la leadership, perché è sempre questione di leadership, e quindi si possa migliorare la leadership, ma non solo politica, ma anche economica, sociale, in tutti i campi, attraverso una selezione migliore dei giovani che hanno sviluppato delle competenze non solo tecniche, ma anche basate sui grandi valori e sui grandi punti di riferimento del sapere e del vivere nel mondo di oggi. In una battuta, lei, se potesse tornare indietro nel tempo, rientrerebbe in Italia o forse sarebbe stato meglio rimanere in IBM e lasciare perdere la politica? Wrong or right is my country, dicono chi parla inglese, cioè giusto o sbagliato è il mio paese. Io credo che ci sia un dovere per tutti noi per impegnarci a lavorare anche per il nostro paese. Grazie a Lucio Stanca, presidente di Aspen Junior Fellows, e a nome di tutti, domanda di rito per Stefano. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Prima di tutto di non farsi illusioni, anche all'estero è dura, è durissima, e di preparare bene la partenza. Non improvvisare non è un interrail, ma è una scelta di vita che può essere difficilissima e molto dura a momenti, soprattutto una volta fuori, almeno all'inizio, non fare la fine della moglie di Lot, non guardarsi indietro, perché se viene offerta un'altra possibilità bisogna avere fiducia in questa possibilità, e poi l'Italia, come abbiamo visto, non cambia, e lì magari prima o poi si potrà tornare. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi parliamo di un blog che racconta in audio, attraverso lo strumento del podcast, le storie dei giovani italiani emigrati in Cina. La principale differenza rispetto ai blog tradizionali è data proprio dalla possibilità di ascoltare le loro voci. Manuela Pittore, blogger e autrice di Vite in costruzione. Io e mio marito viviamo da anni in Cina per lavoro. E ovviamente durante questo periodo abbiamo conosciuto molti italiani che si sono trasferiti in maniera quasi definitiva in Cina. Abbiamo deciso di far conoscere gli esempi più positivi degli italiani, e alla fine dei conti gli esempi più positivi sono rappresentati dai giovani, che sono giovani in gamba che sia con la conoscenza della lingua cinese sia senza si stanno impegnando in un cammino di costruzione della propria vita qui in Cina. Tracciamo brevemente un profilo di questi giovani. Ci sono degli studenti, quindi abbiamo per lo più studenti di cinese che vengono per specializzarsi. Poi ci sono tutti quelli che sono invece persone espatriati, giovani espatriati. Perché hanno lasciato l'Italia? Perché hanno scommesso sulla Cina? I sinologi, gli studiosi di cinese, hanno scelto la Cina perché era il loro sbocco naturale. Gli altri perché si sa che, almeno l'idea comune è che la Cina rappresenti un futuro economico e soprattutto una chance esagerata di carriera, soprattutto per i giovani. La maggioranza delle persone che abbiamo sentito, che erano quindi giovani tra i 28 e poco più, sono persone che hanno delle posizioni molto alte all'interno delle aziende, che non avrebbero mai avuto ovviamente in Italia. Per maggiori informazioni potete cliccare su viteincostruzione.lipsin.com. Un motivo per restare o tornare. Tre buoni motivi per venire in Italia. È operativo il visto Startuppers, dedicato ai cittadini stranieri che intendono costituire imprese innovative nei settori ad alto contenuto tecnologico. Gli imprenditori avranno diritto a una procedura semplificata che prevede il rilascio di un nulla osta da parte dell'Italia Startup Visa. Tutte le informazioni su italiastartupvisa.mise.gov.it. 11 giovani stranieri potranno inoltre studiare nella penisola grazie al programma Invest Your Talent in Italy, promosso dalla Farnesina con l'obiettivo di attirare giovani studenti provenienti dai paesi considerati prioritari dalle nostre aziende. Infine è stato pubblicato il bando per le borse di studio che il governo italiano mette a disposizione dei cittadini stranieri e degli italiani residenti all'estero per il prossimo anno accademico. Scadenza per le candidature 28 maggio, info su esteri.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Quote Giovani. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di maggio. Quote giovani nelle assunzioni in posizioni dirigenziali, soprattutto nelle amministrazioni pubbliche. Lo chiedono i giovani, secondo una recente indagine Coldiretti. Siete d'accordo? Più under 40 nelle posizioni di management, in modo obbligatorio? Dite la vostra. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.